Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio dal padiglione 2 stand H170 e J169 della Fiera Internazionale Libro di Torino, che chiude stasera i battenti. Il campionato, come sapete, li ha chiusi ieri con il quarto scudetto consecutivo dell'Inter, quinto se consideriamo anche quello ritirato in segreteria, parole dello scorso anno di Mourinho, il sesto secondo posto, difficile da rendere, diciamo la sesta piazza d'onore della Roma negli ultimi 10 anni. E direi la grande impresa della Sampdoria, che ha raggiunto l'Europa che conta. Come avete sentito dal giornale radio, l'artefice primo dell'impresa della Sampdoria, cioè Gigi Del Neri, ha appena annunciato di essere passato alla Juventus. Le voci e i numeri di questa domenica e soprattutto del campionato, i più significativi, preparati come sempre da Franco Piantanida. Allora, l'Inter è campione d'Italia sia col miglior attacco, 75 gol, che con la miglior difesa, 34, esattamente come lo scorso anno. Ma dei 4 campionati vinti sul campo, questo è quello in cui ha totalizzato meno punti e soprattutto meno vantaggio sulla seconda classificata. Più 21 e meno 21 sono i numeri più significativi del campionato. Più 21 sono esattamente i punti che Del Neri è riuscito a fare alla Sampdoria rispetto alla stagione precedente. Meno 21, e questo è il vero flop dell'anno, sono i punti che la Fiorentina di Prandelli ha perso rispetto a una stagione fa, e tra l'altro con la stessa guida tecnica. Seguono molte altre curiosità che poi ci sarà tempo su cui ci sarà tempo di soffermarci nel corso della trasmissione. Accanto a me un critico d'arte e docente dell'Accademia Albertina di Torino, curatore lo scorso anno 2009 del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Che ci azzecca, direte voi? Beh, insomma, ci azzecca, perché nel risvolto di copertina del suo ultimo libro, che ha un titolo magnifico a parer mio e si chiama Da che arte stai, nel risvolto di copertina, edito da Rizzoli questo libro, c'è scritto che questo signore, ripeto, il suo palmarès artistico non lo sto a ripetere, ma insomma, scrive per il giornale, collabora alla Stampa, a Torino 7, al Domenicale del Sole 24 Ore, alle riviste Arte, Max, Rumore e Urrà Juventus. Allora, dato che ho trovato, come dire, singolare, no? questo curriculum letterario, ecco a voi Luca Beatrice. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È un momento di pazienza, perché il disbrigo degli affari urgenti richiede che, insomma, ahimè, la Juventus non è certamente reduce da una stagione da copertina, direi, no? No, direi proprio di no, infatti parlarne proprio oggi è un po'... Però insomma siamo già nella stagione prossima. Certo. Perché non sia proprio una crudeltà mentale, e perché poi gli interisti non ci accusino, visto che siamo a Torino, di dedicare troppo spazio alle squadre locali. L'abbiamo fatto giovedì nella diretta precedente da qui con Massimo Gramellini, che è un noto granata da legare, come lui stesso si è definito in un titolo. Più tardi arriveremo alla Juventus. Il folto pubblico in sala è ovviamente invitato a intervenire se ha delle domande da porre o delle curiosità da togliersi, e c'è il prode Flavio Suardi qui alla vostra sinistra a cui far cenno per prenotare i vostri interventi. Altri arriveranno secondo la formula collaudata dallo studio centrale. Io nel frattempo sentirei almeno una voce di quelle che ieri hanno fatto la storia finale, la parola fine di questo campionato, e sentirei una delle più significative, secondo me, quella di questo ragazzo, di Balotelli, che io non ricordo esattamente quanto tempo è passato dalla sera in cui scagliò a terra la maglia nerazzurra e tutto il popolo interista gli giurò la biura, no? Disse: questo non deve più portare i piedi, eccetera, eccetera, vedemo, eccetera. Ieri è stato tranquillamente protagonista della vittoria dell'Inter a Siena, e questo spiega molto, no? Come il mondo del calcio sia un mondo anomalo, un mondo piacevolmente, secondo me, in questo caso anomalo, perché anche i grandi giuramenti e le grandi abiure durano lo spazio di un mattino. Sentiamo Balotelli. Sono molto contento, vincere 3 scudetti è stata un'esperienza veramente fantastica. Adesso c'è la finale di Champions, che credo che sia il top dei top, e dobbiamo vincere anche quello. Sì, ma sì, a volte succede che ci sono succedono delle cose non molto belle, che non piacciono magari al giocatore, non piacciono ai tifosi, però se ci vuole bene si risolvono senza problemi. Tutte le partite emozionano, però quando sei in campo, se giochi da emozionato, non puoi dare quello che dovresti dare, quindi è meglio lasciare la pressione in parte e pensare a giocare. Poi la pressione ti rendi conto quando è finita quanto ne avevi. Con una cadenza bresciana addirittura spudorata, no? Avete sentito Balotelli. C'è un'altra voce, credo molto significativa, così mi segnalano perlomeno dallo studio centrale di Milano, che è una frase che ieri sera ha molto colpito negativamente i tifosi interisti. Ed è quello in cui, non è la prima volta, ma insomma mi pare che Mourinho, come dire, più che anticipare ribatta e ripeta questo concetto di addio. Possiamo sentire anche questo frammento. Ho avuto durante la stagione qualche momento dove veramente ho capito che non stava nel mio habitat naturale, che questo non era la mia casa, che questo non era il paese per io lavorare e essere felice lavorando. Io ho pensato, io ho sentito questo diverse volte. Siamo entrati in un periodo dove non c'è tempo per pensare, il periodo di giocare Champions, quarto di finale, semifinale, campionato, Coppa, semifinale di Coppa, finale di Coppa, un momento dove uno deve dare tutto, ma tutto al suo obiettivo, e è stato quello che ho fatto io, il punto. E adesso una settimana storica per l'Inter, e dopo la finale è tempo di respirare fondo, di rilassare un pochino, di spendere 2-3 giorni a pensare a me stesso, a pensare in quello che mi farà più felice, e a decidere. Luca Beatrice, ricordo, critico d'arte e docente dell'Accademia Albertina di Torino. È stato per la Juventus oggettivamente un annus horribilis, basti dire che si torna indietro di quasi 50 anni per trovare l'equivalente, quindi il conto è presto fatto. Come te lo spieghi, ci diamo del tu, perché quando si parla di pallone è difficile darsi del lei, è imbarazzante. Come te lo spieghi e che cosa serve per risalire? Ma cosa serve? Intanto un profondissimo bagno di umiltà da parte di tutti, perché io ricordo bene, credo lo ricorderai anche tu, che ad agosto noi eravamo dati come l'anti-Inter, dopo 4 partite eravamo punteggio pieno, c'era insomma, con un allenatore giovane assolutamente juventino come Ciro Ferrara, e poi è successo quel che tutti sanno. Insomma, io credo che da salvare di questa stagione non ci sia assolutamente nulla. Tutti i giocatori sono responsabili di un'annata tragicomica, perché insomma a un certo punto dalla tragedia si è trasformata in una specie di così di dramma, di farsa, e poi la proprietà, la dirigenza, eccetera. Quindi qui bisogna voltare pagina, farlo con tutta l'urgenza possibile. Credo che l'epilogo della partita giocata a San Siro contro il Milan, che già soltanto per il nome dell'avversario dovrebbe costituire una specie di voglia nel miglior stadio d'Italia, nel più bello stadio d'Italia, di farsi vedere. Noi abbiamo fatto una figura da cioccolatai, visto che siamo a Torino, e devo dire che insomma quello ha dato un po' la misura di una squadra totalmente ormai alla deriva, ecco. Non saprei proprio cosa dire. Sì, anche perché era a sua volta un Milan in smobilitazione, no? E farsi travolgere a quella maniera da un Milan che non ha più nulla da dire, che anzi era al passo da Dio, e che che gioca da fermo, e che insomma vabbè, comunque c'è una differenza, il Milan è comunque arrivato terzo e ogni tanto ha persino messo il naso nei quartieri alti, ecco. Certo, però era reduce da una frenata abbastanza disastrosa a sua volta. Se non ci sono ancora interventi dalla sala, e se ci sono invece ci sono, bene, così alterniamo voci. Allora, questo è il Festival della Memoria anche, e sentivo prima Studio Centrale, sono 50 anni da Tutto il Calcio Minuto per Minuto, sono 100 anni dall'esordio della Nazionale. Sì. Allora Gigi Garanzini, vorrei sapere, l'ha fatta anche Beccantini pochi giorni fa sulla stampa, la formazione del secolo, volevo sapere se volevi giocare anche tu su questa memoria storica. Sì, ma io ho già giocato una decina di giorni fa su Sole 24 Ore, e comunque la mia formazione di tutti i tempi, no, della Nazionale, io non ho fatto panchine o non panchine, ho solo fatto una staffetta, perché dato che è stata la cosa più tragicomica a sua volta della storia di cent'anni di Italia, allora la mia nazionale di tutti i tempi è Zoff, Burnic e Maldini, Tardelli, Cannavaro, Scirea, Bruno Conti, Giovanni Ferrari o Valentino Mazzola, lì sono un po' incerto, Piola, e poi staffetta, primo tempo Meazza, secondo tempo Rivera, e Gigi Riva. Ecco, per me questa è la nazionale di tutti i tempi, ovviamente suscettibile di qualsiasi variazione. Credo che prenderne altri 11 che battano questi non sarebbe proprio uno scherzo, ma insomma, comunque è ovvio che poi tutto come sempre opinabile. Un attimo di pazienza laggiù, perché vorrei alternare gli interventi di Luca Beatrice con i vostri. La domanda successiva per Luca è la seguente: il libro l'ho letto, mi sono un po' documentato, certo faccio fatica perché non è la mia materia, ma insomma. Dunque, tu scrivi che non è nata nel 68 la nuova arte italiana, sostieni che semmai questa data va spostata in avanti al 1979. Ora non posso chiederti in questa sede di approfondire questo concetto, però mi incuriosiva questo. Nel 68 invece è nato il calcio italiano del dopoguerra, perché con l'eccezione del grande Torino, che però non ebbe mai una dimensione internazionale perché allora non c'erano le coppe, reduce l'Italia dai due titoli mondiali d'anteguerra, fino al 68 non l'ha veramente mai beccata, e nel 68 con il titolo europeo vinto dall'Italia di Valcareggi è cominciata questa cosa. Esistono, visto che sei un docente di arte e un appassionato di pallone, esistono delle ere, come dire, compatibili o comparabili dal 68 a oggi? Ma sicuramente, considera che per esempio negli anni 80, che sono secondo me la golden age della cultura italiana, dell'arte, del design, della moda, della cucina e ovviamente della nazionale di calcio, tengo a dire sempre rappresentata da almeno 6 juventini quando si vince, perché noi prestiamo i nostri giocatori ad altre squadre per farle vincere. La patria, in questo caso. Sì, la patria, però insomma, e comunque anche sulla maglietta bisognerebbe scriverlo. No, detto ciò, gli anni 80 per esempio hanno fatto vedere tutta la modernità, la contemporaneità del calcio, sono tornati gli stranieri in Italia, forse i più importanti stranieri in Italia li abbiamo proprio avuti in quel periodo lì. Diciamo che quell'epoca che va dalla coesistenza tra Platini, Falcao, Maradona e il Milan di Sacchi, credo che sia stata proprio un'età irripetibile, non solo dell'arte italiana, della cultura italiana, ma anche del calcio italiano. Era effettivamente il paese più bello del mondo, dove tutti volevano venire a giocare. Erano gli anni in cui si diceva che il nostro era il campionato più bello del mondo, era certamente vero. Adesso continuiamo a ripeterlo come uno stereotipo stantio, ma in verità non è davvero più così. Flavio Suardi ha trovato un altro ascoltatore che vuole intervenire direttamente da studio. Dico soltanto un istante agli ascoltatori di casa, che non vorrei si sentissero trascurati oggi, no? E che quindi possono a loro volta prenotarsi al consueto numero. Prego. Buon pomeriggio, dottor Garanzini. No, io volevo fare una riflessione sulla nazionale. Sì. Si è discusso in questi giorni sull'assenza del talento, della fantasia, che è una nostra peculiarità purtroppo storica, di molti CT che hanno esiliato i grandi fantasisti. La madre di tutte le esclusioni è Gianni Rivera nel 70, pallone d'oro, escluso dalla finale di Coppa del Mondo. No, volevo segnalare la recente uscita di un libro che discute le ragioni tecnico-tattico-storiche di queste esclusioni sconcertanti. Basta pensare, noi abbiamo grandi nazionali del rango dell'Inghilterra, della Spagna, della... Ma che libro è? Il libro si intitola CT Ombra, di Tommaso Miceli Malaguti, edito da Nuovi Autori, editrice Nuovi Autori, e lo segnalo perché c'è anche un interessante capitolo dedicato a Berzot, gli 11 insegnamenti del grande Enzo Berzot, che secondo l'autore sono ricavabili dalla lezione di Berzot, la lezione in campo, e anche rispetto a quello che ha detto e scritto, anche riferimento al libro che lei ha scritto, Il romanzo del Vecio. Sì, ma non mi sorprende che Berzot, da maestro di calcio autentico qual è stato, possa stabilire tuttora dei parametri. Siamo sicuri che l'autore di questo libro non è lei? Sono io, sì. Ah, ecco. No, vabbè, ma per motivi di chiaramente di diciamo delicatezza non l'ho detto. Ma sì, l'ho scritto io. L'ho intuito dalla terza persona. Quando lei ha usato la terza persona ho detto va a vedere che è come Carletto Mazzone quando diceva No, non c'era. Mi dirò che Carletto Mazzone. No, non c'era questa voglia di emulare Carletto Mazzone, ma semplicemente una sorta di riservatezza. Però appunto io ritengo che ci siano questi 11 insegnamenti, ho individuato in questo capitolo, ed è strano che un maestro come Berzot non venga mai interpellato. Si sentono tante persone commentare di fare commenti di ogni genere alla vigilia di un mondiale. Ce ne sono già troppi che parlano, per questo Bearzot, che è un vecchio saggio, preferisce tacere. Grazie. Grazie a lei. Continuiamo con questi paralleli sul tra l'arte, direi tra l'estetica, no? Perché poi se c'è un gioco che ha dei parametri estetici molto precisi è il calcio. Poi è vero che il tifoso vuole soltanto vincere, e quando la sua squadra vince è quella che gioca meglio e non c'è re per nessuno. Però è indubbio che, visto dal di fuori, soprattutto visto con dei criteri estetici quali quelli di cui lei è dotato, certi paralleli si possano fare. Se quegli anni Ottanta furono quelli, come dire, esteticamente più validi, quali sono stati o sono i peggiori del dopoguerra? Ma vorrei dire una cosa però che mi viene molto dalla pancia, essendo io un tifoso. I peggiori sono gli ultimi 4 anni in cui i tribunali hanno voluto riscrivere la storia del calcio. Non c'è niente di vero in tutto ciò. Non c'è niente di vero? In tutto ciò non c'è niente di vero, perché insomma ha un, per così dire, duopolio tra Juventus e Milan, che esprimevano, hanno espresso, secondo me, gioco molto interessante. Chi in campo internazionale, soprattutto il Milan, prima con Sacchi e poi con Capello, chi in Italia con una Juventus eccezionale, insomma quella di Lippi, delle due fasi, è sempre stata una grandissima squadra che l'ha messa sul piano dell'agonismo, insomma, della rabbia. Avevamo gli occhi della tigre. Allora, a un certo punto abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, almeno in Italia, e poi i tribunali hanno deciso che la storia andava riscritta in un altro modo. Quello che è successo al 2006, poi insieme agli occhi di tigre c'era anche qualche fischietto al seguito, eh? No, non è vero, non è vero. No, non è vero, questo è una cosa che eravamo troppo forti. Come fa un centrocampo con Emerson e Vieira e Camoranesi e Negge da temere la regia di Tosto e di Mesto? Basta non prendere mai una munizione, no? Quando entri a forbice a metà campo, come è successo per qualche stagione, e vedrà che non lo vedrai, so, vedrai, non vorrei tornare a lei. Però ecco, ritengo che questo sia il periodo più brutto del calcio italiano, che tra l'altro ne ha segnato in qualche modo la decadenza. Io adesso spero che l'Inter vinca la Coppa dei Campioni, anzi direi che è favoritissima in questa partita, le faccio comunque i miei migliori auguri. Straordinaria gufata, è ovvio, ecco. di un docente di estetica. Se così non fosse, credo che insomma il declino del calcio italiano si veda, soprattutto a parte quell'intervallo del Milan in cui ha vinto la Champions nel 2007, un torneo a cui tra l'altro per un certo periodo di tempo sembrava non dovesse neanche partecipare. È chiaro che il calcio italiano è entrato in declino soprattutto perché qualcun altro ne ha voluto riscrivere la storia. Io credo che sia invece entrato in declino per tutt'altri parametri, che sono parametri di violenza, di inabitabilità degli stadi. Tu non sei juventino però. Eh? Tu non sei juventino. No, se Dio vuole no. Cioè, ho tanti difetti, ma questo se Dio vuole mio padre me l'ha risparmiato. Stand di Radio 24 alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, come sempre anche oggi molto, molto affollata, sono... È arrivata anche una scolaresca, ci sono dei bambini, ricorderei ai presenti che i bambini ci guardano, mai dimenticarlo, però mai dimenticare nemmeno gli ascoltatori di tutti i giorni, cioè quelli che sono collegati con noi di lontano. Leggo che ce n'è uno da Milano, uno da Brescia, sentirei da Bari Francesco, buongiorno. Buongiorno, salve signor Garattini. Ho due domande. La prima è questa: come fa un presidente, cioè Elkan, a confermare un amministratore delegato, cioè Blank, che si rende protagonista di operazioni economiche assolutamente prive di senno? Due esempi: Poulsen si liberava dopo un anno di contratto, però dalla Juve è stato pagato 10 milioni di euro, nonostante avesse soltanto un altro anno di contratto col Siviglia. Oppure l'operazione Vieira, pagato 20 milioni di euro da Moggi e rivenduto da Blank a 10 dopo essere stato alla Juve soltanto un anno. E la seconda domanda è questa: come fa ad essere credibile il sistema calcio che manda in Serie B la Juve, perché all'epoca Moggi si è reso protagonista appunto di atti di slealtà sportiva, ovvero sia le telefonate nei confronti dei designatori arbitrali? Oggi scopriamo che queste telefonate le faceva anche l'altra società, cioè l'Inter, però una è stata mandata in Serie B e all'altra gli è stato assegnato un titolo sportivo, cioè lo scudetto. Allora, va bene, le telefonate saranno di gravità diversa. Sono di tenore diverso, Francesco. Stringo perché abbiamo molti interventi qua da studio. Mi pare intanto mi pare che questa indagine sia stata riaperta e quindi vedremo come sarà a sua volta valutata. Queste telefonate non erano state prese in considerazione nella prima tornata, lo saranno in questa seconda e vedremo quale sarà il giudizio. La mia impressione rimane questa: comunque che ricordando bene le prime mi sembra di ricordare per l'appunto che Moggi abbaiasse mentre Facchetti e Moratti belavano, questa mi sembra un po' la differenza direi sostanziale che si è ricavata da quanto si è letto fino a qui, ma ovviamente non tocca né a lei né a me e a nessuno di noi valutarle, toccherà alla giustizia sportiva. C'è un messaggio, no, ce ne sono tanti come sempre, ma c'è uno divertente che dice: grazie per il grande spazio che state riservando all'Inter campione d'Italia, adesso caro lei ha raggiunto Biscardi, firmato Franco. È Biscardi che ha raggiunto me, perché ho letto che ha pubblicato un libro da Mondadori che sarebbe la mia casa editrice, cosa che sinceramente mi ha fatto riflettere in questi giorni. E dato che stiamo parlando di case editrici, ecco Luca Ussia, che è il responsabile di tante cose di RCS Rizzoli, ma soprattutto il responsabile della venuta qui dell'ultra Luca Beatrice, che nel frattempo per fortuna non ha aperto l'impermeabile, ma ha comunque scoperchiato un bicipite e ci ho visto un tatuaggio bianco-nero degno di Materazzi, mutandis o meglio coloris. Prego Luca. No, allora, l'ho portato qui perché, pur essendo in radio, Luca Beatrice ci mette sempre la faccia. Quindi, questo perfetto. Anche tatuaggio, cioè. Io non sono della sua stessa fede, come Gigi sa. Sono dell'altra squadra di Milano, quella che si sta divertendo meno in questo momento. Direi che sono in autoesilio in questo momento, in questo fine settimana. Devo trovare qualcosa da fare anche il prossimo. Però volevo fare una domanda a Luca, la siamo preparata prima. Bravi. Però parliamo di Inter e parliamo del condottiero che ieri ha dichiarato più o meno che è molto triste perché qui noi non l'abbiamo amato abbastanza. Sì. Però è strano, nel senso che dovrebbe essere amato dagli interisti, non può pretendere anche di essere amato. Beh, mi pare che dagli interisti lo sia, oggi molto più di ieri. Continuando il paragone con l'altra cosa di cui è esperto Luca, e cioè l'arte, volevo chiedere a lui di fare un parallelo con un grande artista, cioè secondo lui, parlando di arte moderna, a chi si avvicina José Mourinho, facendo un paragone artistico. Va bene, allacciamo le cinture. Precisato che anche a me Mourinho è simpatico, non fosse altro che insomma guardarlo in panchina è certamente più divertente che non guardar giocare l'Inter, almeno non ha la maglietta nerazzurra. Devo dire che Mourinho mi pare paragonabile a uno di quei tanti bravi artisti sopravvalutati, ce ne sono moltissimi e forse i nomi dicono anche poco al popolo della radio, comunque sopravvalutato. Carina questa. Dunque, torniamo a chi? Ci sono altri ascoltatori in sala? Alterniamoli. Luigi da Milano. Allora, un attimo Luigi da Milano e poi c'è un altro ascoltatore qui. Prego. Luigi, dica. Sì, salve Gigi. Volevo fare un ponte tra Inter Ibra, spezzare una mezza lancia a favore di quest'ultimo che è stato un po' bistrattato ultimamente. Ha fatto un assist di testa per Messi qualche domenica fa, è stato detto che era un colpo di testa in porta sbagliato. Comunque ha fatto 16 gol, ha fatto una doppietta all'Emirates. Lei è interista, vero? Però non si è dimostrato quel fuori classe come Messi e altri giocatori, e qui la grande intuizione dell'Inter di cambiare gioco, di creare un gruppo con addirittura Eto'o che torna in difesa, e questa secondo me è stata la mossa vincente, la creazione del gruppo forte che sta portando l'Inter a questi successi. Io credo che l'Inter debba avere molti motivi di gratitudine nei confronti di Ibrahimovic, perché fino a quando ce l'ha avuto come unico vero terminale offensivo ha vinto 3 campionati grazie a Ibrahimovic. Il quarto anno, quando l'Inter si è accorta che si poteva giocare in un altro modo, avendo un gran numero di campioni davanti, ha avuto la fortuna di trovarsi contro Ibrahimovic, no? E quindi di vedere questo palo della luce piantato nella propria metà campo, che in realtà è stato molto più dannoso che utile al Barcellona ed è stata una delle chiavi di successo dell'Inter. Io resto convinto che se Guardiola sostituisce Ibrahimovic soltanto un quarto d'ora prima nella partita di ritorno, non so chi ci sarebbe in finale oggi insieme al Bayern. Tocca alla sala. Volevo semplicemente dire una cosa: questo è stato un bel campionato. Un bel campionato per l'Inter soprattutto, un bel campionato per il Bari, che lei ha più volte, un bel campionato per la Roma, un bel campionato per la Sampdoria, per il Palermo. Non mi dispiace per Milan e Juve, che quando l'Inter era dove era un po' di anni fa, nessuno si dispiaceva più di tanto. Per cui al suo ospite dica che è un bel campionato questo, ha avuto delle fasi polemiche, ma è sicuramente uno dei più belli. Io ho due figli, uno di 10 anni, uno di 18, uno juventino, uno milanista, la democrazia regna a casa mia, e devo dire che ha coinvolto tutti e due i ragazzi, i quali hanno altro da pensare, ma è stato un bel campionato con tutto quello che c'è dentro, Mourinho compreso, che mi dispiace lei continui a pensare che non sia quel grand'uomo che è, probabilmente ha uomo no, allenatore vorrei ancora vedere un'ultima riflessione su tutto questo campionato di Mourinho, se può farmelo, già pensando però che cosa può dirmi. La ringrazio, grazie a lei. Mourinho credo che quest'anno abbia avuto grandi meriti nelle due coppe. Cioè nel campionato, sinceramente, se non lo vince il campionato, perché è stato bello in testa? Per merito esclusivo della Roma, perché se noi torniamo in agosto, credo ci fosse soltanto Lippi in Italia, convinto, e purtroppo ha contagiato qualche juventino, convinto che la Juventus poteva dar fastidio all'Inter, perché era sinceramente il pronostico di un commissario tecnico che aveva appena contribuito a piazzare due o tre vecchi giocatori inutili tipo Grosso e Cannavaro alla Juventus, no? Prenotandosi il posto per l'anno dopo. Da qui il pronostico di Lippi, no? Che forse tutti ricordiamo. Quindi il campionato lo poteva soltanto perdere l'Inter. È diventato molto bello perché la Roma ha fatto qualcosa di incredibile, perché Ranieri, che è partito con l'handicap di due giornate non giocate, ha fatto più punti di Mourinho, no? Se vogliamo metterla in questi termini. Quindi Lì è stata brava la Roma a rendere bello il campionato al vertice, intendo. Fermo restando il Bari, fermo restando la Sampdoria, fermo restando per un certo periodo il Parma, squadre che hanno fatto anche un bel calcio. Credo che i grandi meriti di Mourinho invece vadano in Coppa, ma in tutte e due, soprattutto in Coppa Campioni, dove evidentemente l'Inter ha compiuto un salto di qualità che non si ricordava addirittura. E questo è merito, non dico esclusivo, ma in buona parte di Mourinho. Ma anche in Coppa Italia, perché secondo me tenere motivata una squadra che ha obiettivi di quel genere e portarla a vincere con mezza squadra di riserve nella fossa dei leoni dell'Olimpico, come era quella sera, beh, insomma, vuol dire veramente essere bravi. Secondo me i grandi meriti di Mourinho sono lì, in campionato, che se non vinceva l'Inter era incredibile a parer mio, e quindi questa è la mia opinione. Lei ha detto dica al suo ospite, beh, insomma, dato che è qua che ascolta, penso che... No, per me è stato il peggior campionato che io ricordi, perché nel 1961-62 avevo pochi mesi di vita e quindi non ho ricordi freschi. Siamo riusciti secondo me anche a superare la grande Juve di Maifredi, che era stata una cosa devastante dal punto di vista delle mie coronarie. E poi ritengo che forse la goffaggine maggiore, ovviamente io essendo un tifoso penso alla mia squadra, quindi quando vincono gli altri non mi interessa, e quel cambio in corsa da Ferrara a Zaccheroni, dopo che Ferrara per alcune settimane era lì seduto in panchina, non si sapeva bene a fare che cosa, a che titolo, con Zaccheroni che mi dispiace dirlo ma è forse il romagnolo più lugubre che esiste sulla faccia della terra, uno che non ride mai, c'è sempre questo strano ghigno stampato. Beh, non c'era nemmeno molto da ridere. Però ecco, onestamente io credo che anche il fatto di prendere un allenatore come Zaccheroni, che era l'ultimo rimasto disponibile credo fino in Bielorussia, ha dato un po' il senso della confusione mentale in cui la nostra dirigenza e devo dire la nostra proprietà entrata oggettivamente. Allora che fare? Bisogna assolutamente che quest'estate porti consiglio e andarci a giocare i preliminari di Europa League. È l'unico momento in cui i preliminari non hanno secondo me una valenza positiva, ecco. Diciamo che andarci a giocare quei preliminari lì io ci manderei direttamente la primavera con la speranza di essere buttati fuori subito, perché sennò a febbraio saremo bolliti un'altra volta. Maliziosetto il nostro amico docente di estetica. Al posto della rubrica Sembra Ieri, oggi ho pensato di sostituirla, visto che siamo al Salone del Libro, con una lettura. Ed è una lettura che avevo preannunciato sin dall'altro giorno. Si chiama Attaccante Nato ed è edito da Rizzoli, un libro scritto da Stefano Borgonovo con l'aiuto inevitabile di Alessandro Alciato, che è un collega e anche un concittadino di Sky. Ho scelto tra i tanti passi possibili di un bel libro e di un libro che evidentemente io credo che voi sappiate tutti da che cosa, da che flagello è affetto Borgonovo, cioè dalla SLA. Borgonovo racconta questo episodio che risale a 2 mesi fa, poco di più, alla vigilia di Inter-Chelsea a San Siro. Alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter, scrive Stefano Borgonovo, sono piombato nel ritiro del Chelsea, Paradiso Blues, a 2 passi da San Siro. Visto che non era un sogno impossibile, Dio salvi la regina e se gli resta un attimo dia uno sguardo anche dalle mie parti, c'è del lavoro per lui. Quello di mia figlia Alessandra è stato a ripulirmi la faccia dalla bava, mentre i miei amici Emiliano e Pino si sono occupati, diciamo così, del trasporto, della carrozzina. Mi hanno accompagnato nella hall dell'albergo, poi al primo piano. La festa era lì, organizzata da me, per me. Nessuno sapeva niente, a parte Bruno De Michelis, lo psicologo italiano della società, mio dolcissimo complice. È stato lui a portarmi dentro una grossa sala da pranzo e ad attirare l'attenzione di tutti. Scusate, signori, abbiamo una visita importante. Silenzio. Durato solo un attimo, erano stupiti. Più di tutti, Carlo Ancelotti, il mio respiro pulito, il buono d'animo che non mi abbandona mai. Non si aspettava di vedermi, sorpresa riuscita. Si è alzato da un tavolo rotondo dove stava mangiando e bevendo vino rosso. Insieme con il resto dello staff tecnico si è avvicinato e ha trattenuto le lacrime con grande difficoltà. Lui crede che non me ne accorga. Io faccio sempre finta di niente, ma tutte le volte è la stessa storia. Mi vede e si commuove e io gli voglio bene per quello. Io credo che se volete fare qualcosa di serio, di intelligente, di umano e soprattutto di generoso, possiate comprare questo libro i cui proventi Stefano Borgonovo, ripeto, attaccante nato, edito da Rizzoli, sono destinati alla ricerca e alla battaglia contro la SLA. Chi c'è in sala? No, prima chi c'è collegato? C'è Francesco da Roma, buongiorno. Buon pomeriggio. Ricordando che nel girone di ritorno la Roma ha fatto 48 punti, che non mi sembra un bottino così tanto da disprezzare, avevo 2 domande, una per il suo gentil ospite Beatrice e una per lei Garanzini. Allora, per Beatrice, sperando che non apra poi alla fine l'impermeabile, un giudizio sul Claudio Ranieri tecnico, e una per lei Garanzini, come giudica lo striscione esposto sul pullman dai giocatori dell'Inter, perché io credo che bisogna saper perdere, ma bisogna anche saper vincere. Grazie, buon pomeriggio. Non so gli striscioni, non ignoro gli striscioni. Quando vedo i libri dedicati agli striscioni, anche se qua c'è un editor in sala che ne ha, comunque che li ha apprezzati, sinceramente li evito perché non è il mio genere. Mentre invece credo che Luca Beatrice abbia un'altra domanda a cui rispondere. Dunque, per ciò che riguarda Ranieri, io credo che lui sia un buon allenatore, non un ottimo allenatore. A Torino, nella Juventus, ha fatto molto bene, non ha fatto il massimo. E soprattutto la partita Roma-Sampdoria, che poteva vincere nel primo tempo 3-0, l'ha persa, dimostrando proprio che quando è lì, che quando lo puoi prendere, a lui manca quell'attimo fuggente che lo possa trasformare in un allenatore capace di passare alla storia. È un po' un destino di tanti questo, devo dire. Ranieri è bravo, però non è bravissimo, secondo me. Lo dicevano anche di Ancelotti, mi risulta, no? Lo dicevate quando, anche di Ancelotti? No, perché Ancelotti... No, dicevate anche che era un maiale che non poteva allenare, Quando Ancelotti venne a allenare la Juventus forse era un po' troppo giovane ancora. Ancelotti è cresciuto ovviamente nel Milan e adesso è, credo, uno dei primi 3 allenatori al mondo. Penso. Io ricordo che lo trattaste comunque da maiale oppure da perdente, nella migliore delle ipotesi. Mi sembra... Da noi ha perso un campionato già vinto. Può capitare. Cioè, se Ranieri se ha fatto... capita agli altri è meglio. Ma se Ranieri quest'anno, questo lo capisco, se Ranieri quest'anno ha fatto più punti ancora di Mourinho, io non però, so che poteva però fare. Quando poteva vincere quella partita che il primo tempo... Scusami, ma cosa vuol dire quando poteva vincere? Ma li ha sbagliati lui 3 gol davanti alla porta o gli ha sbagliati Rise, Totti e quell'altro? Sappiamo tutti e due che ci ha messo del suo. No, io so un'altra cosa, so che se c'è una categoria sopravvalutata nel calcio di oggi è quella dell'allenatore, su questo non c'è nessun dubbio, perché per come era combinata la Juve di quest'anno, io credo che neanche Mandrake l'avrebbe... poteva arrivare quinta, ecco, anziché settima. Ma sarebbe stato già un risultato migliore. In ogni caso, vabbè, tutto sommato alla fine per noi Gobbi, sì. il fatto che la Roma non abbia vinto lo scudetto in fondo è un sollievo, perché Ranieri avrebbe completato il nostro fallimento in maniera ancora più drammatica, completa, proprio drammatica. C'è ancora un intervento dalla sala. Buongiorno, sono Sergio, tifoso juventino. Sì. Circa un anno fa fu scelto Ciro Ferrara, c'era l'effetto Guardiola, l'effetto Leonardo, eccetera, eccetera. È stata un'ottima scelta, infatti furono scartati alcuni allenatori come Delio Rossi, come Mazzarri, che a me non è molto simpatico, però devo ammettere che il suo lavoro lo sa fare. Adesso arriverà Del Neri. Secondo lei bisognerà tornare indietro su alcune scelte anche di alcuni giocatori ceduti perché non erano adatti al modulo che doveva utilizzare Ferrara, o finalmente si può cambiare, si può cercare di fare qualcosa di nuovo? Ma di nuovo bisogna comprare un sacco di ali, tanto per cominciare, bisogna comprare un sacco di esterni, che è esattamente quello che la Juventus aveva a un certo punto pensato di fare due inverni fa, quando aveva già scelto Conte come nuovo allenatore, facendo un gesto di grande slancio verso il futuro, e poi invece si era improvvisamente, come erede di Ranieri intendo, e poi si era improvvisamente spaventata e ripiegata su se stessa. Questa volta ha maggior ragione, perché quello è il modulo, no? Che De Neri sa fare, come tutti i bravi allenatori, sa organizzare tanti tipi di calcio, ma quello è il suo calcio, è quello per cui ha senso ingaggiarlo. Poi dire chi debbano essere o andare nei dettagli sinceramente non spetta a me, e semmai a Luca Beatrice. Questa era già l'ultima domanda prevista. Allora, può essere De Neri una buona pietra di partenza, e se è la pietra angolare, quali sono gli altri frammenti del puzzle che andrebbero inseriti? Ma Del Neri ha dimostrato nella sua lunga, a questo punto, carriera di essere un ottimo allenatore, anche se bisogna ammettere che nelle squadre, diciamo, di prima fascia, la Roma e il Porto, non è riuscito, per cui io spero che, insomma, che ce la faccia. Per ciò che riguarda invece i giocatori, lì è un problema molto molto più serio, perché poi, come hai detto giustamente tu, sono loro quelli che vanno in campo e non gli allenatori. Io spero che nel mondo ci sia qualcuno disposto a ricomprare Diego, Felipe Melo e Amauri, che sono tra i tre più colossali bidoni mai visti giocare a Torino negli ultimi 20 anni. Se già ci aiuteranno in questo, sperando che Cannavaro smette, che Grosso lo segua, allora lì si potrebbero vedere delle belle. Potrebbe però essere... Il problema è che noi non abbiamo molta merce di scambio, per cui ci toccherà certamente vendere Buffon per tirare su un po' di quattrini. Ho la sensazione anch'io. Io chiuderei con la voce del leader, del vero capitano dell'Inter di quest'anno, che per come è migliorato nel corso della sua carriera merita questo finale di carriera. Per l'appunto sentirei la voce di Zanetti. A tutta la mia famiglia, a tutti questi tifosi che sono venuti fino qui a Siena a tifare insieme a noi. Adesso bisogna pensare all'altra finale, però per il momento festeggiamo questo quinto scudetto, che ce lo meritiamo. Contra tutto e contra tutti. Credo che la dimostrazione di questa squadra è stata la forza che abbiamo messo in tutte le partite del campionato. Nessuno ci ha regalato niente e alla fine ha vinto la squadra più forte. Però bisogna fare complimenti anche alla Roma, che ha fatto un ottimo campionato. A parte quel ridicolo contro tutto e contro tutti, mi è sembrato un doveroso omaggio. Si conclude qui l'avventura di Radio 24, anzi di A Tempo di Sport alla Fiera Internazionale del Libro 2010. Vorrei citare tutti i colleghi che hanno reso possibile questa avventura: da Elena Ligio, Guido Scotti, Michelino Previato, Pietro Lacorte, Luca Burato, Davide Ciocia, Flavio Suardi oggi in assistenza. Vi lascio dopo il giornale radio all'ultima diretta da questa fiera di Alessandra Tedesco con il suo speciale Il Cacciatore di Libri. Arrivederci Torino, anzi lo dico alla vostra maniera, essendo piemontese a mia volta, ciao Torino.